contro il lusso dei vini esotici. Non bisogna dunque affannarsi per avere il vino di Chio se non lo si ha o quello di Ariusio. La sete, in effetti, è la sensazione che esprime una mancanza e desidera, per soddisfarla, un rimedio adatto e non una bevanda sofisticata. Le importazioni di vino da oltremare hanno per causa una brama depravata dall'intemperanza. In quel modo, infatti, l'anima, anche prima di ubriacarsi, già è in delirio per il desiderio. Esiste il vino profumato di Taso, quello aromatizzato di Lesbo, quello dolce di Creta, quello tenero di Siracusa, il medesio d'Egitto, quello isolano di Nasso e altri vini fragranti che vengono dall'Italia. Tanti nomi, ma per un convitato sobrio, il vino è uno solo, raccolto dal vigneto dell'unico Dio. Perché non dovrebbe bastare il vino nostrano a soddisfare il desiderio? O forse vorranno importare anche l'acqua, come facevano quei re dissennati che insieme agli amici portavano con sé anche l'acqua del Coaspe. Il Coaspe è un fiume dell'India la cui acqua è ottima da bere. Questi ricchi, a tal punto invischiati nelle raffinatezze, lo Spirito Santo li compiange quando esclama per bocca di Amos: «Bevono vino filtrato, reclinati su letti d'avorio», e quel che segue a mo' di rimprovero. Bisogna bere con educazione e decoro. Si deve avere cura soprattutto del decoro. Anche di Atena, quale che fosse, il mito dice che, essendo molto attenta alla sua persona, gettò via ed eliminò il flauto per quanto fosse piacevole, poiché non era cosa decorosa a vedersi. Per cui bisogna bere senza deformare il viso, senza tracannare a sazietà, né costringere gli occhi ad assumere un aspetto sgraziato quando ci si accinge a bere, ingoiando ogni cosa tutto d'un fiato a causa dell'intemperanza. Non bisogna neppure che ciò che si beve, versato in abbondanza e continuamente, coli sulla barba o bagni i vestiti, quasi che ci si dovesse lavare la faccia immergendola nei boccali. È brutto anche il rumore che si fa quando si beve avidamente, aspirando insieme molta aria. La gola risuona per questa pioggia di liquidi come quando si versa qualcosa in un'anfora di terracotta. Davvero sconveniente è lo spettacolo di una tale intemperanza. E inoltre la passione del bere è anche dannosa a chi ha questa abitudine. Non affannarti a tuo danno, amico mio. Nessuno ti porta via la tua bibita. Ti è stata data ed è lì per te. Non affrettarti a scoppiare, trangugiando a tutto fiato. La tua sete si sazierà anche se berrai un po' più tranquillamente, e così si manterrà il decoro, bevendo educatamente e con interruzioni. Il tempo non ti porta via ciò di cui la tua intemperanza cerca di impadronirsi subito. Non fare lo spavaldo col vino, dice la scrittura, poiché molti il vino ha mandato in rovina. Soprattutto gli sciti, i celti, gli iberi e i traci hanno la consuetudine di ubriacarsi. Sono popoli totalmente dediti alla guerra e credono che questa sia una occupazione bella e felice. Noi invece siamo il popolo della pace e facciamo i pasti per trarne diletto e non per tracotanza. Beviamo calici sobri in onore dell'amicizia, cosicché anche i nostri amici siano accolti appunto all'insegna dell'amicizia autentica. Come credete che il Signore bevesse quando per noi si fece uomo? Così spudoratamente come noi? Non forse con educazione, non forse con garbo, non forse con modo di fare ponderato? Sapete bene certamente che anch'egli beve vino, anch'egli infatti fu uomo. Benedisse il vino dicendo: prendete e bevetene, questo è il mio sangue. Chiama allegoricamente sangue di uva la santa sorgente della gioia, cioè il Logos versato per molti in remissione dei peccati. Che poi chi beve debba essere temperante, egli lo ha mostrato chiaramente con il suo insegnamento, quando stava a tavola. Infatti non insegnava essendo ubriaco. E che fosse vino, quello che benedisse, ne ha dato prova dicendo ai discepoli: «Non berrò più del frutto di questa vite fino a quando ne berrò insieme a voi nel regno del Padre mio». Che fosse vino quello che il Signore beve, è ancora egli stesso ad affermarlo quando, parlando di se stesso e biasimando la durezza di cuore dei giudei, dice: «È venuto il figlio dell'uomo e dicono: ecco un mangione e un bevitore di vino, amico dei pubblicani. Comportamento delle donne nei banchetti. Quanto detto ci valga anche contro le obiezioni dei cosiddetti encratiti. Per quel che riguarda le donne, poi, esse fanno sparire ogni traccia di decenza quando, non volendo usare coppe ampie, poiché dovrebbero allargare la bocca e allora le loro labbra si fessurerebbero, bevono laidamente da bicchierini di alabastro dall'apertura strettissima e per berne piegano indietro la testa, denudando così in modo maleducato, direi, il collo e tendono la gola per inghiottire facendo scrosciare giù i liquidi, quasi a voler mettere a nudo tutta la loro forza al cospetto dei convitati. Poi emettono rutti da maschi o piuttosto da carcerati e si lasciano andare alla voluttà e alle mollezze. A un uomo che abbia il logos non si addice mai fare rumori nel bere, tantomeno a una donna. Se essa prendesse coscienza di sé medesima, di ciò che è, non potrebbe avere altro sentimento che vergogna. Oggetto di grande sdegno, dice la scrittura, è una donna ubriacona, e così pure è oggetto della collera di Dio una donna amante del vino. Perché? Perché in tal modo essa non potrà nascondere la sua indecenza. Una donna, se inclina anche solo la volontà verso i piaceri, subito è trascinata nella sregolatezza. Non proibiamo di bere in bicchieri di alabastro, vogliamo però eliminare questa consuetudine vanagloriosa di bere solo in essi e consigliamo alle donne di utilizzare indifferentemente i bicchieri che capitano, tagliando così alla radice i loro desideri sdrucciolevoli. Quanto all'aria che risale e prorompe nel rutto, essa deve essere fatta uscire silenziosamente. Non bisogna poi assolutamente permettere alle donne di mostrare a nudo una parte, quale che sia, del loro corpo, affinché non cadano in peccato entrambi, gli uomini per l'eccitazione nel guardarle e le donne per il fatto di attirare su di sé gli sguardi degli uomini. Dobbiamo invece comportarci sempre in maniera dignitosa, come alla presenza del Signore, così che l'Apostolo non debba rivolgersi adirato anche a noi come ai Corinzi. Quando vi riunite, il vostro non è un mangiare la cena del Signore. Ancora sui mali dell'ubriachezza. A mio parere, quella stella chiamata dagli scienziati Acefalo, elencata prima dell'astro errante, simboleggia con la sua testa reclinata sul petto gli ottoni, i libertini e gli uomini sempre pronti a ubriacarsi. Costoro hanno il raziocinio posto non nella testa, bensì negli intestini, essendo asservito alle passioni, ai desideri e alla rabbia. Per cui, nello stesso modo in cui il penore si ruppe il collo cadendo per l'ebbrezza, così anche il cervello di costoro, stravolto dall'ubriachezza, precipita giù nel fegato e nel cuore, cioè nella sensualità e nell'ira, e la sua caduta è maggiore di quella che secondo i poeti Zeus fece fare ad Efesto, precipitandolo giù dal cielo. Insonnia penosa, coliche e vomito accompagnano l'uomo insaziabile, dice la scrittura. Per questo anche l'ubriachezza di Noè è stata riportata per iscritto affinché noi ci preservassimo il più possibile dall'inebriarci, avendo un esempio chiaro e scritto di questo fallo, in occasione del quale, peraltro, il Signore benedisse coloro che coprirono la vergognosa nudità dell'ubriachezza. Assai concisamente la scrittura riassume tutto ciò in una sola frase. All'uomo educato è sufficiente il vino in quantità moderata, sul suo giaciglio troverà riposo. Non bisogna ricercare il lusso nelle suppellettili. È inutile l'uso di coppe d'argento e d'oro o incrostate di pietre preziose, è solo un inganno della vista. Infatti, se vi si versa dentro un liquido bollente, esse si scaldano e diventano pericolose da prendere. Se invece vi si versa qualcosa di freddo, la materia della coppa si deteriora e modifica la natura del liquido, e in tal modo questo bere lussuoso diventa nocivo. Via dunque i calici detti di Tericle e di Antigone, i cantari, le coppe labronie, le lepaste e tutte le migliaia di diverse coppe, i bicchieri psicteri e le brocche da vino. Insomma, l'oro e l'argento, sia in privato che in pubblico, sono un possesso che provoca l'invidia. Sono cose che vanno ben al di là del necessario, sono rare da ottenere difficili da conservare e scomode da utilizzare. E anche quella vanagloria amante di raffinatezze che è il lavoro dei cestellatori su vetro, vetro reso da questa arte ancora più fragile, che ci costringe a bere avendo paura di rompere il bicchiere, è da eliminare dalla nostra regola di vita. Le poltrone d'argento, i catini, gli acetaboli, i piatti, le zuppiere, i vasi d'argento e d'oro, alcuni per servire il cibo, altri per usi che ho vergogna anche solo a nominare, i tripodi foggiati di cedro fossile e di tuia, di ebano e avorio, i letti dai piedi d'argento e dalle placche d'oro, le porte con chiodi d'oro adornate con gusci di tartaruga, le coperte tinte di porpora e di altri colori rari, tutte queste cose sono segno di un lusso di cattivo gusto. Sono un fasto che provoca invidia e mollezza. Sono tutte da rigettare, poiché non hanno il benché minimo valore. Come dice l'Apostolo, il tempo si è fatto breve. Dobbiamo quindi cessare di assumere comportamenti ridicoli, come quando, nelle processioni, si vedono certe donne che all'esterno sono truccate in maniera così splendida da attirare rispetto, ma dentro sono delle miserabili. Ad ulteriore chiarificazione l'Apostolo aggiunge: d'ora in poi chi ha moglie sia come se non l'avesse e chi compra sia come se non possedesse. Ora, se queste cose vengono dette a proposito del matrimonio, del quale Dio disse «moltiplicatevi», non vi pare forse che a maggior ragione l'autorità del Signore escluda il cattivo gusto del lusso? Per questo dice anche: vendi ciò che hai, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi. Segui Dio, spogliatoti dell'arroganza, spogliatoti di una scorta peritura, tenendo con te solo ciò che è tuo, l'unico bene che non ti può essere tolto, cioè la fede in Dio e l'adesione a colui che ha sofferto per noi, la beneficenza verso gli uomini. Questa è la ricchezza più preziosa. Io accetto anche Platone, quando stabilisce categoricamente che bisogna sforzarsi di non avere ricchezza né d'argento né d'oro, e neppure suppellettili inutili, cioè di uso non necessario, quantunque siano comuni. Una stessa cosa, infatti, può essere utilizzata per più scopi, e così la sovrabbondanza di oggetti viene eliminata. Dice molto bene la Divina Scrittura quando afferma, a proposito degli egoisti e degli arroganti: «Dove sono i capi delle nazioni e i dominatori delle belve che sono sulla terra, coloro che giocano con gli uccelli del cielo e accumulano tesori d'argento e d'oro, in cui gli uomini confidano e il cui possesso non ha limite, gente che fabbrica con argento e oro e si dà pensiero di queste cose? Ecco, le loro opere non si trovano più. Sono svanite e sono discese negli inferi. Questa è la ricompensa per il lusso di cattivo gusto. Se compiamo lavori agricoli, abbiamo bisogno della forcina e dell'aratro, e nessuno forgerebbe una zappa d'argento o una falce d'oro, poiché per il lavoro della terra ci interessa che la materia sia funzionale e non che sia preziosa. Allo stesso modo, che cosa impedisce di avere, per analogia, uno stesso abito mentale nei riguardi delle suppellettili domestiche? Il criterio deve essere l'utilità, non il lusso. Orsù, dimmi, il coltello da tavola, se non è dotato di chiodini d'argento o non ha il manico d'avorio, forse che non taglia? O bisogna forse costruire con metallo indiano il coltello per dividere la carne, quasi come a chiamare in soccorso un alleato? E che, se un catino è di terra cotta, non può accogliere l'acqua per lavarsi le mani, oppure una bacinella non può accogliere l'acqua per lavare i piedi? Certo, la tavola dai piedi d'avorio si sentirà umiliata a dover portare su di sé un pane da un obolo, e la lucerna non darà luce perché si trova ad essere di coccio e non d'oro. Io sostengo che una branda offre un giaciglio non peggiore di un letto di avorio, e che una coperta di peli di capra è ottima per sdraiarcisi sopra, senza che ci sia bisogno di stoffe purpuree o fenicie. Eppure la semplicità viene disprezzata a causa della stoltezza di un lusso che è sorgente di infiniti mali. Vedete ora quanto grande sia l'erranza e la vanità di cattivo gusto. Il Signore mangiava su di un piatto semplice e faceva sedere a terra i suoi discepoli sull'erba. e lavava loro i piedi cingendosi con un panno. Lui, che era il Dio senza orgoglio, il Signore di tutte le cose, non si portò giù dal cielo un catino d'argento per lavare i piedi. Chiese da bere alla samaritana che attingeva acqua dal pozzo con un secchio di coccio. Non ricercava l'oro dei re, bensì insegnava a estinguere la sete con semplicità. Poneva infatti come scopo l'utilità e non una vana parvenza del bene. Mangiava e beveva ai conviti, ma non faceva estrarre dalla terra i metalli per servirsi di coppe odoranti argento e oro, cioè ruggine, poiché in vero queste materie superbe hanno proprio l'odore della ruggine. In generale, sia i cibi, sia i vestiti, sia gli utensili e, per essere breve, tutte le altre cose che sono in una casa devono essere conformi all'attitudine del cristiano, adattate secondo la convenienza alla persona, all'età, all'occupazione e al tempo. Noi siamo i servitori di un Dio unico e perciò bisogna che i nostri possessi e gli oggetti che abbiamo si mostrino come segni di una via unitaria e buona, e ognuno di noi deve, con fede piena, con un'attitudine coerente e unitaria, dimostrare che compie le sue azioni in accordo e in sintonia con questa disposizione unica. Le cose che acquistiamo senza difficoltà le lodiamo, potendole usare con agio, le conserviamo facilmente e ne facciamo tranquillamente partecipi gli altri. Perciò le cose utili sono le migliori e quelle più semplici sono sempre preferibili a quelle costose. Insomma, la ricchezza, se non viene gestita correttamente, è una roccaforte del male, verso la quale il più degli uomini tengono gli occhi fissi e a causa di ciò non potranno mai entrare nel regno dei cieli. Malati delle cose del mondo, viventi nell'orgoglio a motivo delle mollezze del lusso. Coloro che zelano verso la salvezza riconoscono certamente che ogni nostro possesso è in funzione dell'uso che se ne fa, e l'uso ha come fine l'autosufficienza, la quale si può avere anche con poche cose. Stolti sono coloro che per la loro insaziabilità si compiacciono di oggetti preziosi. Chi accumula i suoi guadagni, sta scritto, li accumula in una borsa forata. Così è colui che accumula e mette sotto chiave il suo grano, lo vede diminuire ma non ne fa partecipe nessuno. È degno di scherno e di grande risata che gli uomini portino con sé orinali d'argento e pitali di cristallo, allo stesso modo in cui portano seco i loro consiglieri personali, e che le donne, piene di stolte ricchezze, si facciano fare recipienti d'oro per i loro escrementi, cosicché queste ricche signore non possono nemmeno evacuare senza gonfiarsi d'orgoglio. A costoro io vorrei augurare di stimare loro per tutta la loro vita degno solo dei rifiuti. Davvero si può dire che l'amore per il denaro è la roccaforte del male. L'Apostolo la definisce la radice di tutti i mali. Anelando ad essa, dice, alcuni hanno deviato dalla fede e hanno inflitto a se stessi molte sofferenze. Ora, in verità, la più bella ricchezza è essere povero di desideri, e la vera fierezza consiste non nel vantarsi delle ricchezze, ma nel disprezzarle. Menar vanto delle proprie suppellettili è davvero vergognoso. La rettitudine vuole che non ci si affanni per queste cose, le quali possono essere comprate al mercato da chiunque. La sapienza invece non si compra con moneta terrena o al mercato, ma si acquista in cielo con moneta di giustizia, con il Logos incorruttibile, con l'oro del Re.